Siamo qua sotto la sede di Confindustria per fare questa conferenza stampa di lancio della manifestazione del corteo regionale che faremo sabato prossimo, 20 giugno, nel pomeriggio qua a Bologna e che si colloca nel percorso che abbiamo aperto nel mese di maggio e in piena fase 2, producendo una convergenza di percorsi di lotta dei settori lavorativi e sociali più colpiti dalla crisi sanitaria prima, ma soprattutto dalla crisi economica e sociale che si sta affacciando in queste settimane e sicuramente sarà molto più dura nei prossimi mesi, anche perché le risposte del governo, le misure economiche di questo governo, discusse anche questi giorni a Roma, sicuramente vanno in una direzione che non è auspicabile per tutti noi. Si è parlato in questi mesi di enormi risorse, anche dall'Europa, ma la questione centrale è dove queste risorse verranno spese e a chi verranno destinate. Siamo qua sotto, a Confindustria perché Confindustria è uno dei maggiori responsabili, dal nostro punto di vista, delle morti anche procurate durante l'emergenza sanitaria per l'offensiva che ha avuto contro il lockdown, contro la chiusura per tenere aperte le industrie e le attività assolutamente non essenziali. E però questo attacco, questa offensiva adesso è passata appunto ad una successiva fase ed c'è un attacco per reperire, per accaparrarsi tutte queste risorse, mettere al centro l'impresa e non i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari e dei più deboli per attaccare il contratto collettivo nazionale e di fatto, come dire, andare a riscrivere in peggio le regole, diciamo così, le regole del gioco. Ci sono tante vertenze che già stanno però pagando il prezzo di questa ipotesi del mondo, diciamo, che abbiamo davanti. Noi abbiamo un'idea assolutamente diversa di futuro. E il 20 sarà l'ennesima tappa, la nuova tappa per respingere questi attacchi. Riteniamo la manifestazione del 20 un momento importante e decisivo rispetto al percorso che abbiamo fatto fino adesso. Noi, come operai della logistica, siamo stati tra i primi, quando è scoppiata la pandemia, a rivendicare il diritto alla salute sui posti di lavoro. Le nostre aziende, che principalmente sono grandi multinazionali o comunque industrie legate a Confindustria, hanno cercato fin dall'inizio di continuare la produzione senza pensare a quelle che potevano essere le condizioni dei lavoratori. Quindi abbiamo costruito un grande sciopero, diciamo, che è durato 3 settimane, che ci ha permesso di rivendicare il fatto di poter stare a casa, a salario pieno, per appunto impedire che i magazzini e le industrie diventassero focolai di contagio. Questa è stata, come dire, una grande lotta che ha fatto saltare quello che è il ricatto tra lavoro e salute, che Confindustria invece provava nei tavoli col governo a stringere come una morsa sulle nostre teste. Come veniva detto precedentemente, proprio in quei luoghi di lavoro che non sono stati chiusi, in quei luoghi di lavoro che sono rimasti aperti durante il picco della pandemia, sono diventati dei focolai di contagio. Intorno a quelle zone abbiamo contato il maggior numero di vittime e questa è purtroppo la storia della provincia lombarda. Noi, a partire, diciamo, da questo sciopero prolungato che abbiamo fatto, abbiamo incominciato, come dire, a costruire un percorso di lotta, perché ci siamo resi conto che in questo momento i nostri interessi come classe operaia, come lavoratori, potevano essere, come dire, portati avanti solamente dal basso, con un percorso nostro che riuscisse a farci uscire, come dire, dall'angolo e a rimettere al centro quelle che erano le esigenze di quei settori di popolazione che sono stati abbandonati in questi anni dalle politiche dei governi. Infatti la pandemia ha fatto esplodere quelle che erano contraddizioni che già da tempo c'erano all'interno della nostra società, e sono le contraddizioni che le politiche neoliberiste hanno scaricato sulla pelle delle fasce popolari della società. Quindi parliamo di una sanità definanziata, privatizzata, parliamo dei diritti e delle tutele del mercato del lavoro che sono state attaccate e aggredite, parliamo delle città dove il diritto alla casa, il diritto alla mobilità da e verso i luoghi di lavoro, il diritto a un'istruzione gratuita e pubblica per tutti e per tutte di qualità, sono stati attaccati e distrutti in questi anni e la pandemia ci ha mostrato, come dire, la fragilità di questa società. Per questo crediamo che da soli non basta. rischiamo. Crediamo che per questo sia importante costruire una convergenza con i percorsi di lotta presenti, diciamo, sul territorio a livello nazionale, che ci permetta, come dire, di costruire una convergenza che riesca a darci, come dire, anche quella forza che possa permettere di affermare quelli che sono i nostri interessi. I nostri interessi sono la salute, sono i soldi, perché crediamo che la crisi, che ormai è pienamente economica, sia innanzitutto la dimostrazione delle estreme diseguaglianze che attraversano la nostra società, e quindi soldi, quindi un salario, un reddito per tutti e per tutte, e poi ovviamente i diritti, che crediamo non debbano essere, come dire, una formulazione astratta, ma i diritti sono tali quando costruiscono un rapporto di forza sociale. Quindi, come dire, i diritti del mondo del lavoro vuol dire libertà di sciopero, libertà di picchetto, libertà di associazione sindacale. I diritti, come dire, sono un qualcosa che deve vivere nella pratica, e quindi anche se alcuni diritti sono sembrano, come dire, garantiti, in verità poi nella pratica non lo sono, e quindi la nostra lotta è anche per affermare i diritti già esistenti, ma anche conquistarne di nuovi.